Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, bentrovati, è domenica 2 giugno, festa della Repubblica. Una festa che noi di Restiamo Animali vogliamo celebrare con il nostro messaggio di non violenza e di rispetto per i diritti di tutti i viventi, nessuno escluso. Un messaggio a suo modo rivoluzionario, ma che può essere compreso e condiviso da chiunque, come cerchiamo di dimostrare dal marzo del 2012, quando questo programma ha cominciato ad andare in onda. Siamo arrivati alla puntata numero 94 e Lorenzo Guadagnucci, che vi parla, vi saluta anche a nome delle altre persone che hanno contribuito a realizzare questa puntata. Camilla Lattanzi, che stavolta, eccezionalmente, non è alla conduzione, Valentina Reggioli, Sara Razzoli, Roberta Marino e Tommaso Gambassi, che ha curato come al solito il montaggio delle musiche. Oggi torneremo a parlare di caccia. Nei giorni scorsi abbiamo vinto la nostra piccola ma importante battaglia per salvare le volpi minacciate da un provvedimento della provincia di Prato che consentiva un periodo di caccia straordinario. Dopo l'appello promosso da Restiamo Animali e WWF Toscana, sottoscritto da numerose personalità della cultura, della scienza, della politica e da moltissimi cittadini, la provincia di Prato ha ritirato il provvedimento. Ma nel frattempo la regione toscana ha fatto felici i cacciatori, regalando l'apertura straordinaria alla caccia a cinghiali, cervi, caprioli. E però sta probabilmente per partire, come sentiremo, un contenzioso legale contro la giunta regionale più filovenatoria d'Italia. Parleremo poi di vitelli salvati dal macello, di una nuova guida al vivere vegan e del rapporto fra la violenza sugli animali e la violenza tout court. E prestate attenzione alla ricetta della settimana, stavolta è piuttosto elaborata, ma vale davvero la pena di provarla. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Oggi vi proponiamo un brano tratto da un libro che abbiamo presentato qualche tempo fa. È 95, Gli animali come non li avete mai visti, pubblicati da Impronte di Luce Edizioni. È una raccolta di testimonianze scritte da persone che hanno lavorato come volontari in vari rifugi per animali negli Stati Uniti. Ogni animale è raccontato per come il volontario lo ha conosciuto, per la relazione che si è stabilita fra loro. Sono quindi ritratti di maiali, mucche, tori, galline, oche. Tutti animali che nella nostra società sono considerati in senso letterale pura carne da macello. Il brano che leggiamo si intitola Giganti Gentili. Ralphie, Andy ed Elvis sono manzi adulti di razza Holstein. Anche se di per sé questo potrebbe non sembrare un fatto straordinario, i maschi di razza Holstein non sono facili da incontrare. La ragione è che essi sono un sottoprodotto indesiderato dell'industria lattiero-casearia e vengono uccisi da giovani per produrre carne bianca di vitello, in quanto da adulti non producono latte e non sono manzi da carne. Considerati esclusivamente come una fonte di reddito, Ralphie, Andy ed Elvis erano stati separati dalla madre alla nascita. Vennero salvati da una stalla scura e sudicia, dove erano legati a delle sbarre in modo tale da non potersi nemmeno girare. Per quanto riguarda la mole, i maschi Holstein sono dei mostri. Ralphie è alto 1,83 m, 2,44 m se si solleva al massimo la testa, e ancora di più se si considerano anche le corna. Una volta terminata la crescita saranno ancora più alti e peseranno poco meno di una Hyundai. Gli Holstein sono animali enormi e tra i più grandi dell'emisfero. Sia Ralphie che Andy ed Elvis sono perfettamente consci della forza che hanno. Ciascuno di loro è consapevole della propria mole e anche della nostra. Ognuno di loro sa benissimo che potrebbe causarci gravi danni, ma questo non impedisce a Ralphie di strofinare il suo naso contro il tuo e di farsi grattare nella zona soffice e vulnerabile alla base della sua lunga gola. E non impedisce ad Andy di leccarti il braccio come un gatto, con lo stesso effetto carta vetrata, o di abbassare la testa all'altezza della tua, in modo da potersi godere una bella strofinata fronte contro fronte. Elvis è un pochino più riservato. Quando viene avvicinato, però, anche lui abbassa la testa, ti lecca la mano e ti permette di spazzolarlo fino a quando il tuo braccio non ne può più. Quante volte ti capita in una settimana di incontrare una tale potenza avvolta in tanta gentilezza? Bob Esposito. Notizie, interviste, attualità. La Regione Toscana ha recentemente approvato una delibera di giunta per riaprire la caccia al cinghiale e la caccia di selezione agli ungulati. Ne parliamo con Massimo Vitturi, responsabile caccia della LAV, Lega Antivivisezione. Come dobbiamo interpretare questa decisione della Giunta Regionale Toscana? Questa decisione è l'ennesimo solito favore che viene fatto ai cacciatori toscani, fatto dalla politica, tanto per capirci. Questo qui praticamente di fatto rende cacciabili i cinghiali e poi tutti gli ungulati tutto l'anno, 365 giorni l'anno, sia in stagione di caccia con la normale apertura della caccia prevista dalla legge nazionale e regionale, ma anche fuori da quel periodo con la scusa della caccia di selezione, ovvero quella caccia che viene fatta da cacciatori che si considerano più scienziati, diciamo, e che quindi uccidono gli animali non a casaccio, dicono, ma in base alle classi di età, in base al genere, e quindi facendo appunto, sostituendosi a quella che dovrebbe essere la selezione naturale, o almeno questo è quello che vogliono farci credere normalmente. È credibile questo tipo di versione della caccia in questo periodo? Ecco. Appunto, questo è quello che vogliono farci credere, così per ammantare il loro operato, che alla fine si conclude sempre con il versamento del sangue di migliaia, decine di migliaia di animali, per ammantare questo loro operato sanguinario di un velo, come dire, di scientificità, senza rendersi conto che quando dicono questa cosa dicono una scempiaggine, perché non c'è alcun bisogno dei cacciatori che facciano selezione, visto che tutte le specie animali hanno attraversato ere geologiche, si sono selezionate da sole senza alcun bisogno che ci fossero i cacciatori. E il vero danno in realtà lo fanno i cacciatori, perché esistono degli studi fatti negli Stati Uniti in cui è evidente che la selezione fatta dai cacciatori è una selezione al contrario. Ovvero, mentre la natura seleziona gli animali per far come dire, sopravvivere, resistere e quindi portare avanti il patrimonio genetico degli animali più forti, più performanti rispetto all'ambiente che li ospita, i cacciatori fanno il contrario. Perché? Perché loro vogliono abbattere appunto non gli animali più deboli o più in difficoltà o malati, ma ovviamente a loro interessano gli animali più grossi, parlando di cinghiali, più robusti, che quindi danno più carne e che sono normalmente gli animali dominanti. Ma parlando per esempio degli ungulati, quelli che hanno il palco di corna più bello, che in genere sono quelli che poi vincono le sfide quando è la stagione degli accoppiamenti, quindi sono gli animali dominanti, quelli che dovrebbero accoppiarsi e portare avanti il sangue. È una fandonia che ci raccontano, supportati dai politici, che sono sempre comunque anche loro a caccia, ma quantomeno una caccia meno sanguinaria, ma si chiama caccia di voti, insomma, alla fine dei conti. Ecco, appunto, però le istituzioni legittimano in qualche modo questa pretesa scientificità. In che modo è possibile opporsi e cambiare l'indirizzo di queste scelte politiche? C'è una scelta di fondo alla quale i politici dovranno arrivare, si dovranno confrontare a breve. L'approccio che dice: se c'è un problema di interazione tra uomo e animali, chiamo il cacciatore che fa piazza pulita come un killer, questo tipologia di approccio sarà costretta a smettere prima o poi, volente o nolente, perché i cacciatori sono comunque in costante declino. In Toscana siamo scesi da tempo sotto la soglia dei 100.000. In merito a questa nuova delibera, devo dire che ad una prima lettura ci sono delle cose che non quadrano e stiamo valutando i contenuti con il nostro ufficio legale, perché c'è qualcosa che non quadra e quindi potrebbero esserci anche delle novità in questo senso molto, molto interessanti, che soprattutto per la tutela degli animali. Un'ultima domanda: molti anni fa ci fu in Italia un referendum contro la caccia che non fu poi legittimato dal quorum, ma recentemente si è provato con una nuova azione di referendum in Piemonte, vanificata in quel caso da un colpo di mano della giunta regionale per impedire il voto. È maturo un nuovo progetto di referendum sulla caccia in Italia o no? Questa è una questione che è sempre all'ordine del giorno tra noi, tra tutti noi che siamo contrari alla caccia e ne vorremmo l'abolizione questa sera, anzi ora, in questo istante. Purtroppo dobbiamo fare i conti con una realtà che è contraria alle nostre idee, alle nostre speranze, almeno per il momento. I referendum, ma non solo il referendum sulla caccia, il referendum come strumento è uno strumento che uno parte zoppo, perché il confronto non è alla pari, ma è uno contro due, ovvero uno è il voto di chi lo vuole abolire, una qualsiasi legge sottoposta al referendum, e due invece è la forza di chi è contro e quindi vuole mantenere lo status quo, perché c'è sia il no sia l'astensione in Italia. E quindi di fronte a queste possibilità poche è la nostra forza. In più c'è una disaffezione anche del cittadino comune al voto, che fa sempre propendere sempre meno a spostarsi di casa. Abbiamo visto anche con l'ultima recentissima tornata elettorale amministrativa quanto sia calata l'affluenza alle urne. Stiamo sempre diventando più uomini digitali, quindi davanti al nostro computer a cliccare mi piace a destra e manca, però quando si tratta di esercitare il nostro diritto di voto, conquistato anche con la fatica e il sangue dei nostri nonni, dei nostri genitori, ecco che non utilizziamo questo importantissimo diritto democratico. Ed ecco che quindi per questo pensare a un referendum contro la caccia ad oggi non è certamente una delle priorità, perché rischieremmo comunque di avere un grosso impegno, un grosso sforzo economico e di energie per poi trovarci comunque a dover combattere contro chi manda i cittadini al mare piuttosto che vadano a votare, così per garantirsi comunque la sopravvivenza dello Stato quo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. vi propongo una ricetta con gli asparagi, questi ortaggi buonissimi e salutari che purtroppo si trovano dal fruttivendolo per poco tempo. Quindi approfittiamone finché ci sono, con una preparazione classica, le crespelle agli asparagi. L'ho rivisitato ovviamente in chiave vegan, rendendola molto più leggera e rapida da preparare, ma non per questo meno gustosa e saporita. Gli ingredienti per circa 8 crespelle sono 220 g di farina, un cucchiaio di amido di mais, mezzo cucchiaino di curcuma, 300 g circa di latte di soia oppure acqua, un pizzico di sale, uno di pepe, un cucchiaino di olio di semi. Per il ripieno invece, un mazzo di asparagi freschi, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di miso, ma è facoltativo solo se l'avete già in casa, una manciata abbondante di mandorle pelate. Per la besciamella, 500 ml di latte di soia, 5 cucchiai scarsi di farina, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. Iniziamo dalla preparazione della pastella. Mescolate in una ciotola la farina, l'amido, sale, pepe, curcuma e l'olio. Unite poco alla volta il latte, o se le volete ancora più leggere l'acqua, mescolando con una frusta per evitare che si formino grumi. Mettete il composto a riposare in frigorifero. Nel frattempo pulite gli asparagi, togliendo la parte esterna più fibrosa, tagliateli a tocchetti e lasciate da parte le punte. Metteteli in una pentola con poca acqua, mettete sul fuoco e quando l'acqua bolle gettate anche le punte. Cuocete per 4, massimo 5 minuti, poi scolate delicatamente e lasciate raffreddare. Conservando da una parte le punte, mettete in un contenitore stretto e alto i gambi degli asparagi tagliati a tocchetti, l'aglio e le mandorle un poco tritate a coltello, olio, sale, pepe e miso. Frullate con il mini pimer sino ad ottenere una crema omogenea. Preparate le crespelle facendo scaldare un goccino d'olio di semi in un padellino. Quando è caldo versateci circa un mezzo mestolo scarso di composto in modo da ricoprire la superficie della padella. Mi raccomando, poco impasto perché la crespella deve essere sottile. Quando i bordi inizieranno a staccarsi, giratela e cuocetela dall'altro lato un minuto al massimo. Continuate così a fare altre crespelle sino ad esaurimento della pastella. Passiamo ora alla besciamella. Mettete in un pentolino, magari con il fondo un po' spesso, la farina, sale, pepe e noce moscata. Aggiungete gradualmente il latte mescolando con la frusta per sciogliere bene la farina. Mettete su fuoco dolce e portate a ebollizione senza mai smettere di mescolare. Vedrete che nel giro di pochi minuti vi verrà una besciamella bella densa, fluida e saporita. Ora farcite ogni crespella con un cucchiaio di besciamella e un cucchiaio di crema di asparagi. Ripiegatela in tre e mettetela in una teglia da forno che avrete precedentemente cosparsa di uno strato sottile di besciamella. Stesso procedimento per tutte le altre crespelle. Terminate con una bella colata di besciamella, le punte degli asparagi che avevate conservato, una spolverata di pan grattato e, se lo gradite, il lievito alimentare. Un bel giro d'olio e cuocete in forno caldo a 180 per circa 20 minuti. Lasciatele raffreddare qualche minuto prima di gustarvele. Ciao, alla prossima! Perle agli umani, letteratura per la liberazione. You have one unread message. Pretty little rabbits killed for one single coat. Not to mention mention dead animals passing daily down your throat. The fifth commandment says, thou shall not kill, and still you got the thrill from the suffering. That's un libro curato da Dora Irieco e Laura Mencherini, che reca come sottotitolo un'eloquente esplicazione, una bussola verde per orientarsi nel mondo vegan. Questo libro si avvale anche dei contributi di una serie di autori, citiamoli: Jacopo Ceccarelli, naturopata, Rossana Chimenti, psicologa, Enrico Moriconi, veterinario, Roberto Politi, architetto appassionato di cucina vegan, Anna Romano, medico, Caterina Servi Scarzelli, counselor, Cristian Testa, medico ed esperto di nutrizione. Questa guida è una bussola autentica che contiene nella sua appendice una serie di indirizzi di ristoranti, di negozi, di luoghi dove prodotti vegan sono reperibili in Italia e all'estero, comprende un ricettario, ma è articolata per una serie di capitoli che affronta anche temi scomodi, diciamo, rispetto alle guide vegan classiche. Parliamo di tutto questo con Dora Grieco, che è presidente di Progetto Vivere Vegan, un'associazione pionieristica, la prima esplicitamente vegana fondata in Italia. Dora, quali sono state le parti più difficili per realizzare questa guida? Nessuna parte è stata difficile, più che altro magari complessa, perché abbiamo fatto con Laura Mencherini una ricerca tutto tondo di tutte quelle che potevano essere le informazioni utili per mettere in pratica questa filosofia di vita vegan. Quindi noi vegani ci poniamo in contrapposizione alla società che si basa sullo sfruttamento e sulla schiavitù di tutti gli animali. Quello che noi facciamo è prendere atto di questo e di conseguenza mettere in pratica, non chiamerei uno stile di vita, una scelta di vita appunto che vuole evitare qualsiasi sfruttamento degli animali. Voi osservate nel libro che anche i prodotti vegetali spesso sono coltivati con sfruttamento animale, non fosse altro che per i concimi. Ecco, quali sono le esperienze di agricoltura vegana alle quali possiamo fare riferimento? Ma già in Inghilterra ci sono degli esempi di agricoltura veganic, che quindi, diciamo, mette insieme l'agricoltura senza i concimi chimici e senza i concimi di derivazione animale. In Italia si muovono ora i primi passi, questo perché manca completamente la richiesta. Sulla guida abbiamo cercato di mettere anche queste piccole cose, non tanto per spaventare o per far capire che, o insomma, rendere la cosa difficoltosa, semplicemente così, per far conoscere le varie questioni e le varie sfaccettature, e soprattutto per cominciare a chiedere veramente le cose a tutto tondo, insomma. Ecco, sì, questo è un aspetto importante, forse ci fa capire che una vita completamente 100% vegan nella nostra società è quasi impossibile da condurre per chiunque, però ci indica un orizzonte. In questa chiave mi sembrano interessanti altri due capitoli, uno quello relativo all'alimentazione degli animali domestici, che forse può essere vegano anche questo, e l'altro sui figli, sui bambini, sulla possibilità di educare, di far crescere i propri figli senza sfruttamento animale. Sì, certo, la contraddizione di chi è vegan è quella di utilizzare dei cadaveri di animali per nutrire altri animali, ovvero i prescelti, i cani e gatti che vivono magari nelle nostre case sono alimentate con i più sfortunati animali che poi invece vivono e muoiono negli allevamenti. Noi abbiamo chiesto aiuto al veterinario Enrico Moriconi e abbiamo chiesto a lui di spiegarci se appunto gli animali d'affezione, quelli così definiti, possono vivere con una dieta vegana, e abbiamo trovato conforto in questo, chiaramente con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili. Ovviamente è meglio non il far da sé, ma magari utilizzare i cibi bilanciati che sono in vendita, che cominciano ad essere sempre di più anche in Italia. Diciamo che ci sono dei cibi bilanciati, crocchette oppure in forma di umido, che si trovano in vendita nei negozi di alimentazione per animali, e quindi si possono sicuramente utilizzare questi. Poi il dottore Enrico Moriconi ci dà anche delle indicazioni per preparare in casa il cibo. Chiaramente anche lì ci vuole una massima attenzione, però si può fare. La situazione oggi di questa lotta contro lo sfruttamento animale a che punto è? Tu vedi dei segnali di allargamento di questa, di questo impegno, di questa prospettiva? Negli ultimi anni sicuramente c'è un crescendo intanto dell'interesse della questione animale. Tutti ora sanno che c'è un problema, no, da affrontare, e cresce l'attivismo. Crescono anche i vegani, e semplicemente perché magari fino a qualche anno fa anche chi si sentiva attivista per i diritti degli animali non era vegano. Ora questa cosa è sempre più rara, quindi sia a livello di attivismo sia comunque come società credo che sia veramente il cambiamento si stia vedendo, e soprattutto quelli che prima erano visti, cioè i vegani, come persone un po' strane, un po' bizzarre, ora cominciano ad essere visti con un occhio un po' diverso, cioè siamo persone normali che si fanno carico magari di un grosso problema sociale, lo stiamo mettendo allo scoperto, tutto il resto della società inizia ad ascoltarci. Grazie Dora Grieco, con questo messaggio direi che è un buon viatico per la lettura del libro di cui abbiamo parlato oggi, Guida al vivere vegan, Terra Nuova Edizioni, di Dora Grieco e Laura Mencherini, di Progetto Vivere Vegan. Innocent and helpless, fear transmits in nature worse and nervousness. 8 kilos of wheat equals 1 kilo. Abbiamo ora una conversazione con Anna Maria Manzoni, psicologa e animalista ben conosciuta agli ascoltatori di Restiamo Animali, registrata dalla nostra Roberta Marino durante la scorsa Sagra del Seitan. Il tema affrontato da Anna Maria Manzoni è quello della violenza, la violenza nei bambini, sugli animali, la violenza nella società, e quindi la relazione che può esserci fra l'animalismo e l'educazione. È vero fino a un certo punto che se i mattatoi avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani. Ricordiamoci che ci fu un tempo in cui tutto quanto avveniva alla luce del sole, i macelli erano all'aperto e tutte le pratiche crudeli, a partire dalle condanne a morte, alle torture, a tutto il resto, avveniva pubblicamente. Il risultato era che le persone lo trovavano assolutamente normale. Quindi credo che sia un discorso da prendere e da esaminare. Non è vero che mettere tutto alla portata di tutti e lasciarlo costantemente sotto gli occhi serva a risolvere il problema, può di fatto raggiungere il risultato contrario. Credo che debba esserci un'operazione di informazione e che determinate immagini debbano essere contestualizzate, unite a una condanna e essere spunto di pensiero. Ecco, questo è quello che penso. Un'altra domanda sul parallelismo sui diritti degli animali e i diritti dei bambini, di cui accennava prima, sui diritti, diciamo, dei più deboli in generale. Questa è anche un po' la vecchia diatriba, per esempio sul discorso della vivisezione, o anche semplicemente la carne fa bene ai bambini, o anche nella propaganda sempre animalista spesso si utilizzano magari immagini un po' forti. C'è stata una vecchia polemica sulla bambola inscatolata, il bambolotto inscatolato, che doveva essere la carne in scatola e che ha suscitato parecchie polemiche, come invece dalla parte dei vivisettori si pratica la vivisezione perché tu devi salvare il tuo bambino. Quindi anche qui come si può mettere insieme il discorso? Comunque si tratta di soggetti deboli ed è una vecchia questione che non si risolve, cioè c'è sempre comunque il bambino che prevale. Penso che tutti gli esseri abbiano dei diritti, e i bambini hanno diritto a vivere un'infanzia in cui i loro diritti siano rispettati, in cui non siano maltrattati, abusati dagli adulti, in cui gli adulti siano le persone di riferimento che li proteggano. Le donne hanno i loro diritti, le persone povere, diseredate dovrebbero essere aiutate a uscire dalla loro condizione tramite mutamenti della società. Gli animali non possono continuare a essere considerati al nostro servizio. Cioè, quello che voglio dire è che tutte le questioni che riguardano i problemi di chiunque non possono essere gerarchizzati, non si può dire i bambini, dobbiamo occuparci dei bambini, quindi è stupido ed è indecente occuparsi di animali. Perché dobbiamo dire questo? Credo che gli attuali movimenti animalisti abbiano chiara questa cosa e quello che si pongono come obiettivo è di darsi da fare per tutti coloro che ne hanno bisogno. La causa dei bambini che non devono essere sfruttati nel lavoro, non devono essere maltrattati, devono avere il diritto a una vita decente, deve essere perseguita contestualmente, mi viene da dire, per esempio, alla causa delle donne che non dovrebbero essere soggette alla violenza degli umani, che deve essere perseguito contestualmente a quello degli immigrati che hanno diritto a una vita decente, che deve essere perseguito contestualmente ai diritti degli animali. Tutte cause che sono assolutamente importanti. Quello che io penso è che ognuno di noi ha delle energie, del tempo che è limitato, e ognuno di noi si dedicherà attivamente ad una causa piuttosto che a un'altra, per motivi diversificati che magari attengono anche alla propria biografia. Detto questo, chi si occupa di animali non lo farà mai, non lo può fare in opposizione alla causa dei bambini, ma lo farà parallelamente a queste. È un discorso, io credo, assolutamente lineare, semplice. Martin Luther King, che mi piace citare, diceva che l'ingiustizia in un luogo è una minaccia per l'ingiustizia in tutti gli altri luoghi. Questo è quello che penso. Ogni ingiustizia va combattuta. Non vedo perché farne un discorso in cui ci sono i problemi più importanti e poi ci sono quelli che non verranno mai. Un'ultima domanda rispetto ai bambini: si parlava di bambini con situazioni di disagio in famiglia, abituati alla violenza, che hanno subito violenza e che perpetuano questa violenza anche magari appunto su soggetti più deboli che sono gli animali. La scuola, o comunque la scuola in parallelo magari con le associazioni animaliste, come si può partire dagli animali, dal rispetto degli animali, per arrivare anche a modificare questo comportamento e avviare un'educazione scolastica, pedagogica di tipo diverso? Allora, la scuola ha evidentemente un compito educativo enorme, e se non è solo trasmissione di sapere, il compito educativo comprende al proprio interno proprio l'intervento sulla, credo, come punto principale, sul rispetto, rispetto per tutti gli altri. Quindi che la scuola possa essere anche come agenzia, il luogo in cui i bambini e i ragazzini vengono educati al rispetto per gli animali, credo che sia assolutamente doveroso, giusto. Peraltro anche questa non è un'idea nuova, all'inizio del 1900 c'erano già tanti programmi che si ponevano in questa direzione. Altro discorso è all'interno della scuola, per esempio, che è per l'appunto un luogo dove è possibile fare osservazioni, perché i bambini, i ragazzini sono sotto gli occhi degli operatori, degli insegnanti ogni giorno, possono venire alla luce tanti disagi. E per esempio non è raro che a scuola si sappia di bambini che sono particolarmente crudeli nei confronti degli animali. Ora, io credo che degli insegnanti attenti, al di là della rabbia che questo può provocare o della reazione magari di impeto, siano anche consapevoli appunto del fatto che dei bambini che sono crudeli nei confronti degli animali stanno esprimendo un disagio che andrebbe capito, accolto. Molto spesso bambini crudeli nei confronti degli animali sono bambini che vivono in famiglie dove c'è della violenza che molto probabilmente viene anche compiuta contro di loro. Allora la violenza nei confronti degli animali, tra le altre cose, può essere anche un grido d'allarme, un campanello che suona e che dice che quel bambino sta vivendo una situazione difficile, che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno di essere capito, oltre al fatto che quell'animale ha bisogno di essere protetto. What kind of a murder is humane? Silent bullets in the heads, that's death, full and pain. Just to satisfy your tongues, no excuse, no gain. Same teachings in the Holy Bible, we should all follow, where confession is explained. Bible isn't hollow. Hello in Genesis, first page, God is talking to us about foodstuffs that isn't mentioned. Why don't we trust? Thank you. Per finire due appuntamenti, entrambi martedì 4 giugno. A Pisa, al Municipio dei Beni Comuni, nell'ex colorificio liberato di via Montelungo 70, apericena a cura dell'associazione La Stellaria, a partire dalle 19, con incontro dibattito con Massimo Filippi, autore del microlibro Natura infranta, del quale abbiamo parlato qualche settimana fa. Introduce l'incontro Marco Verdone. Sempre martedì a Firenze, la Biblioteca Fabrizio De André, in via delle Carra, zona San Jacopino, alle 17, chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci, presenta il suo libro Restiamo animali. Con Restiamo Animali versione radio, appuntamento giovedì 6 giugno alle 9.55 con la consueta pillola, in replica alle 16.05. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.